lunedì 28 novembre, i titoli dei maggiori quotidiani. Intanto il Sole 24 Ore, riforma pensioni, pronto il dossier. Oggi il Sole 24 Ore si concentra proprio nell'edizione del lunedì sulle pensioni che verranno allo studio del governo Monti. E poi il ruolo della Francia è in tutti i titoli dei quotidiani. Corriere della Sera: la Francia preme sull'Italia, mantenere gli impegni, patto tra Parigi, Roma e Berlino. Per Repubblica: Sarkozy, Monti rispetti gli impegni. Per La Stampa: patto a tre per l'Europa. Il Giornale: l'asse franco-tedesco, vogliono comprare l'Italia. Per Il Messaggero: Sarkozy incalza l'Italia. Così il Secolo, XIX, Sarko, patto sull'euro, ma l'Italia si sbrighi. Il titolo invece di apertura dell'Unità è la tragedia a Brindisi dei migranti morti in mare, senza terra. Questo è il titolo e c'è la foto di due sommozzatori che recuperano un corpo senza vita in acqua. Intanto io voglio partire proprio, siccome l'ho citata, la questione dei vitalizi, e insomma ogni tanto ritorno alla questione della lotta alla casta dei politici. E sapete cosa ha detto D'Alema? Massimo D'Alema ha detto che i primi a usare il termine casta dei politici furono le Brigate Rosse. E oggi Gian Antonio Stella, in prima pagina del Corriere della Sera, fa un commento dal titolo «Prima Italia, la politica, poi i sacrifici dei cittadini», proprio prendendo spunto dalle parole di Massimo D'Alema, che ha anche detto nei paesi evoluti non si protesta contro la casta ma contro Wall Street. Così ha detto Massimo D'Alema, infastidito dalle polemiche sugli eccessi della politica. Tiriamo a indovinare, scrive Stella, che sia perché il Parlamento costa a ogni americano 5,10 euro, a ogni inglese 10,19, a ogni francese 13,6 euro, mentre a ogni italiano 26,33 euro, o perché un consigliere regionale lombardo come Nicole Minetti o Renzo Bossi prende quanto i governatori di Colorado, Arkansas e Maine messi insieme? O sarà perché, secondo la Tage Zeitung, l'assessore provinciale alla sanità di Bolzano guadagna 6.000 euro in più del ministro alla sanità tedesco? O perché un dipendente del Senato costa mediamente 137.525 euro lordi l'anno, cioè 19.000 euro in più dello stipendio massimo dei 21 collaboratori stretti di Obama? Insomma, bastano pochi dati a dimostrare quanto sia un giochetto peloso spacciare la difesa di certi spropositi con la difesa della democrazia. Se la Camera spende oggi per gli affitti delle sue dependenze 41 volte più di 30 anni fa, cosa significa? Molte più spese, molta più democrazia? E scrive Stella, prendiamo proprio i vitalizi dei parlamentari. La Camera ha deciso a luglio, il Senato giorni fa, che dalla prossima legislatura non ci saranno più, meglio, saranno sostituiti da qualcosa di diverso. A naso, una pensione integrativa calcolata sui contributi versati, come accade ai comuni mortali dalla riforma Dini di 16 anni fa. A naso, però, perché la decisione vera sarà presa da un'apposita commissione. E scrive Stella, non vorremmo che la commissione sia ciò che scrisse Richard Harkness sul New York Times. Dicesi commissione un gruppo di svogliati selezionati da un gruppo di incapaci per il disbrigo di qualcosa di inutile. Insomma, prima Italia la politica, poi i sacrifici dei cittadini. Questo è il messaggio di Stella, vale a dire con la bruttaria che tira, con i nuvoloni che si addensano per l'Europa, l'intera classe dirigente di Mario Monti non può permettersi di dare l'impressione di tenersi stretti certi doni, oggi impensabili, di una stagione che va dichiarata irrimediabilmente finita. Comunque di vitalizi ne parleremo più avanti, alle 8:20. E poi, prima della pubblicità, vorrei segnalarvi il dibattito profondo che è stato scatenato da una rapina a mano armata avvenuta a Napoli ai danni della fidanzata del calciatore Lavezzi, il Pocio del Napoli, che è stata rapinata di un Rolex con una pistola puntata. Insomma, un'esperienza certo non piacevole. Solo che ha fatto Lady Lavezzi dopo la rapina? Si è sfogata su Twitter, che ormai è diventato uno dei mezzi di comunicazione più immediati e più rischiosi in questo caso. Si è sfogata e ha detto: dicono che in Argentina c'è insicurezza, mi hanno rubato l'orologio a mano armata, e ha chiuso con un bel Napoli, ciudad de mierda, cioè città di merda. E qui è nato subito un dibattito, i napoletani ovviamente offesi, perché dice: ma come si può tirare in ballo tutta una città per un episodio del genere? C'è il sindaco De Magistris che oggi fa un'intervista a Repubblica, chiedo scusa, però insomma non si può insistere su una frase che ha detto chiaramente nel momento in cui ha subito un atto di violenza, esprime l'amarezza. La stessa Lady Lavezzi poi ha dovuto postare su Twitter delle scuse: chiedo scusa Napoli e napoletani, vi chiedo di comprendere il mio sfogo, non potrei mai odiare o sparlare di una città così bella, saluti a tutti. C'è il presidente del Napoli, De Laurentiis, che ha dato la sua verità: c'è crisi e con il Rolex al polso non si gira, va bene? Perché insomma, se uno gira con il Rolex al polso, c'è in tempi di crisi, se le va a cercare praticamente. Lo stesso sindaco De Magistris si è dovuto calare un attimo nelle vesti di ex magistrato e ha dovuto rispondere a questa domanda di Repubblica. Prima il furto nella villa di Cavani, poi la moglie di Amsic è stata aggredita, ora la moglie e la fidanzata di Lavezzi. Qualcuno dice che la camorra ce l'ha contro i giocatori per cercare di minare la tranquillità della squadra. E De Magistris risponde a questa domanda: francamente non ho nessun elemento o motivo per valutare questa ipotesi. Insomma, è nato da una rapina, da uno sfogo, una serie di dichiarazioni di complottoni. Lady Lavezzi, rapina e sfogo, se ricapita il pocio se ne va. Così sul Corriere: la fidanzata di Lavezzi rapinata del Rolex, Napoli città di merda, e i tifosi si infuriano. Così su Repubblica: la ragazza di Lavezzi rapinata se la prende con tutta Napoli. Così sulla Stampa. Insomma, è nato un dibattito incredibile, un dibattito che esonda oggi dai giornali. 24 mattino. Nei 7:33 minuti, allora, andiamo a vedere che cosa succede sui giornali per quel che riguarda l'Europa, dove l'Italia, con Parigi e con Berlino, quindi Roma, sta lavorando per cercare di creare una sorta di unione della stabilità per rafforzare l'Eurozona. D'altronde Eurozona a rischio. Questo ormai è dato per certo, tanto che continuano le indiscrezioni sui giornali. L'ultima, quella che è stata rilanciata ieri dalla Stampa, è quella che il Fondo Monetario Internazionale sarebbe pronto a fare un maxi prestito all'Italia, un maxi prestito che potrebbe arrivare quasi a 600 miliardi di dollari, a un tasso oscillante tra il 4-5%. Insomma, ovviamente sono voci che si rincorrono. Oggi il Corriere della Sera a pagina 3 racconta i piani e i timori per l'Italia, tensione sull'asta del tesoro prevista per domani. La Banca Centrale Europea si prepara a entrare in scena con molta più determinazione a sostegno delle banche, soprattutto dei titoli di Stato. Prima però toccherà ai governi accettare i nuovi vincoli che la Germania di Angela Merkel intende imporre nella sorveglianza sui bilanci pubblici dell'area euro. Un'idea molto chiara ce l'ha la Francia di Nicolas Sarkozy, che ha detto all'Italia ora le riforme ed è determinata a spingere l'Italia e la Spagna verso il classico piano di salvataggio del Fondo Monetario Internazionale di cui si discuteva, anche perché ora a capo del Fondo Monetario Internazionale c'è un uomo, una donna di fiducia della Francia, ve la dice Christine Lagarde. Non c'è solo il fatto che l'Italia è contraria, però, scrive Federico Fubini, c'è anche che servirebbero al punto almeno 600 miliardi di dollari per il governo di Roma, più altri 250 miliardi per la Spagna. Eppure il fondo dispone di appena un terzo di quella cifra. E poi ci sono gli Stati Uniti, che sono contrari a questo scenario perché adesso non possono permettersi di aderire. Gli Stati Uniti, che invece oggi giocheranno una partita importante, perché il presidente americano Obama incontrerà due esponenti dell'Unione Europea molto molto influenti, vale a dire Barroso e Van Rompuy. E oggi Federico Rampini su Repubblica, in prima pagina, poi continua a pagina 3, racconta ciò che il presidente americano chiederà ai due esponenti dell'Unione Europea. Il messaggio americano: l'austerità non serve, il messaggio è questo: la BCE dia subito liquidità illimitata alle banche per salvarle. che la BCE intervenga a offrire liquidità illimitata per garantire le banche europee più fragili, onde evitare un crack che sarebbe una bancarotta Lehman all'ennesima potenza. Questo è il messaggio, la raccomandazione che oggi Barack Obama intende consegnare ai rappresentanti dell'Unione Europea giunti a Washington. Lo farà con discrezione per rispetto dell'autonomia della banca centrale, ma difficilmente l'Eurozona otterrà nuovi aiuti dal Fondo Monetario Internazionale se non cambia qualcosa della BCE. Dunque, gli Stati Uniti sarebbero contrari a questo aiuto del Fondo Monetario, piuttosto, dice Obama, dovrebbe la Banca Centrale Europea arrivare in soccorso delle banche. Lui ricorda bene, scrive Rampini, il pericolo scampato nel 2008 in America. Fu il suo battesimo di fuoco, la bancarotta Lehman, in seguito alla quale le banche smisero di farsi credito tra loro, rischiando così di asfissiare l'economia reale. Obama era ancora un semplice candidato alla Casa Bianca, ma si prese la responsabilità di appoggiare il piano Paulson, vale a dire 700 miliardi di dollari per creare un cordone sanitario attorno alle banche. Ora è convinto che i leader europei debbano osare altrettanto. Lo farà capire stamani a Herman Van Rompuy e José Barroso, accogliendoli alla Casa Bianca per il vertice annuo USA-Unione Europea. E dunque userà i suoi due ospiti come messaggeri perché riferiscano a chi di dovere Angela Merkel, l'unica che può sbloccare l'impasse europea. Dunque questa sarebbe la strategia della Casa Bianca: garantire da parte della Banca Centrale Europea più fondi illimitati alle banche in difficoltà in modo che non collassino. E insomma, qualcuno dà anche i giorni, 10 giorni per salvare l'euro. Secondo Berlino, sta di fatto che i giorni sono decisivi e è stata una settimana dopo l'invito del fate presto, del fare presto al governo Monti. Ora c'è una data che è il 5 dicembre, che vuol dire settimana prossima, lunedì prossimo, il che vuol dire che insomma questi appelli al fare presto sono stati accolti per il momento in parte. Cioè si pensava che questa fosse la settimana decisiva da parte del governo Monti per far sapere agli italiani quali siano e che impressionanti e come davvero siano impressionanti quelle riforme prospettate da Angela Merkel, che le ha definite così impressionanti, ma che nessuno al momento conosce, ci sono ipotesi. E invece non è questa la settimana decisiva, sarà la prossima, lunedì 5 dicembre. Ieri Monti, tutti fanno sapere, insomma ormai c'è questo sport, la domenica di Monti, ieri la passata dal barbiere, è tornato a Milano in via tra l'altro Vincenzo Monti, c'è il suo barbiere Monti da Monti, e ha chiesto al suo barbiere di fiducia di aprire il negozio per farsi una spuntatina ai capelli. Vabbè, questo è stato l'inizio della domenica di Mario Monti. Racconta Paolo Griseri su Repubblica: la difesa dei professori, fare in fretta sarebbe poco serio. Ai suoi più stretti collaboratori il premier ha confidato: tutti ci chiedono di fare tutto subito, ma non sarebbe serio. E utilizza un ministro non citato nel nome, ma insomma uno degli esponenti vicini al governo Monti, un ministro del governo Monti. L'immagine che utilizziamo è la metafora della costruzione dei grattacieli: più il palazzo che devi costruire sarà alto, più tempo sarà necessario per scavare e preparare le fondamenta. Lavori che non si vedono, non colpiscono chi transita di fianco al cantiere. Alcuni passanti anzi mugugnano: ma quanto ci mettono? È un bel po' di tempo che lavorano. In realtà, terminata la costruzione delle fondamenta, il grattacielo sale relativamente in fretta. Il tempo necessario a sovrapporre un modulo all'altro e a raggiungere rapidamente il tetto. Quindi la metafora, quella usata, dei grattacieli: non bisogna fare presto le cose che ci chiedono in fretta per dare un segnale, ma poniamo bene le fondamenta, magari ci prendiamo una settimana in più, prendiamo un po' di tempo in più, e poi una volta che le fondamenta sono solide, lì sarà un attimo partire. Insomma, questa è la linea. Ovviamente su che cosa? Beh, le voci che si rincorrono sono sempre quelle, no? L'ICI, l'IVA, l'aumento dell'IVA, la super IMU, la novità sulle pensioni, le liberalizzazioni, infrastrutture. Per il giornale c'è super ICI, IVA e patrimoniale shock. Ecco il jolly impressionante di Monti: come recuperare 15 miliardi nella manovra del 5 dicembre. E ovviamente ci sono, insieme alle voci, anche le interviste subito. Oggi Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio, sull'Unità dice: per carità non toccate l'IVA. Non si può formulare un giudizio compiuto su misure ventilate, ma certo l'IVA. Pensiamo che la fiducia richieda disciplina fiscale e di bilancio, ma anche crescita. Monti lo ha detto alle Camere: non saremo credibili neppure rispetto agli obiettivi di finanza pubblica se non ricominceremo a crescere. Dunque, secondo Sangalli, toccare l'IVA vuol dire abbattere la fiducia nei consumi da parte degli italiani. Mentre Bersani, intervistato da Repubblica, il leader del PD, serve una manovra equa e poco recessiva, avanza le proposte del Partito Democratico, che sono queste: le risorse vanno cercate là dove c'è stato meno disturbo, e quindi pensiamo a un'imposta sui grandi patrimoni immobiliari, un'azione credibile sul lato dell'evasione fiscale. Siamo invece molto prudenti su provvedimenti che riguardano l'IVA, perché l'Italia è un paese in cui l'effetto inflazionistico è rilevantissimo. E poi riteniamo che per dare un sostegno alle attività in senso antirecessivo bisogna lavorare sull'immediata partenza di piccole opere pubbliche e private, dunque pensiamo a una limitata deroga al piano di stabilità dei comuni. Intervistato da Fabrizio Nicotra sul Messaggero, questo è il messaggio di Bersani. C'è ovviamente poi tutto il fronte delle pensioni. Oggi il Sole 24 Ore dedica un dossier sulle pensioni che verranno, secondo il ministro Elsa Fornero, che sta mettendo a punto tutta la riforma che a questo punto, immagino, il 5 dicembre vedrà la luce, insieme alle altre proposte. Salvatore Padula ne scrive a pagina 3: pensioni, la riforma punta all'anticipo. Il percorso è l'ipotesi più gettonata, è quella di un'azione in due tempi, scrive Padula. Il primo pacchetto di misure, per così dire, congiunturali, per dare risposta ad alcuni problemi urgenti. Poi, in rapida successione, un altro pacchetto di interventi, più organico e strutturale. La parola chiave è equità. Secondo Monti, infatti, il punto debole del sistema previdenziale non è tanto la sostenibilità dei conti, non è neppure il ritardo italiano nell'innalzare l'età di pensionamento, ma è appunto l'equità insieme al rigore. Perché il nostro sistema, affermato Monti, rimane caratterizzato da ampie disparità di trattamento. Allora, l'architrave è quello di passare al sistema contributivo, come ormai si è capito, stabilendo che dal 1 gennaio 2012 tutte le nuove pensioni saranno calcolate col sistema contributivo, facendo comunque salvi i diritti acquisiti. In pratica, cioè, anche i lavoratori oggi collocati nel sistema retributivo passerebbero, ma solo per gli anni mancanti alla pensione, al sistema misto. L'età di uscita poi sarà flessibile, introdurre questo criterio di flessibilità consentendo l'uscita a un'età compresa tra i 63 e i 68 o 70 anni, ovviamente con dei meccanismi che incentivano o disincentivano l'uscita. E poi appunto la questione dell'equità. Insomma, tutto comunque spiegato a pagina 3, quello che potrebbe essere l'idea del ministro Elsa Fornero. Mentre torna la questione della tracciabilità, lo sappiamo, è un tema molto dibattuto, la tracciabilità del denaro. L'idea è quella di abbassare la soglia, l'attuale soglia di 2.500 euro, abbassarla a 300 addirittura o 500 euro, come rimodellare questo limite, insomma sconsigliare e portare a trovare dei modi per disincentivare l'uso del contante e incentivare l'uso invece della moneta elettronica, le carte, i bancomat, ciò che il presidente del Consiglio Berlusconi gli era definito un qualcosa di stato di polizia. Allora, c'è anche il BTP Day oggi. So che Deborah Rosciani ne parlerà alle 12. Il BTP Day, vale a dire il giorno in cui le banche non mettono commissioni sui titoli di Stato da comprare. C'è chi è favorevole, c'è chi è contrario. Il Secolo XIX segnala di come c'è un imprenditore siriano di origine che però ha la sua base a Milano, Radwan Kavatmi. È uno che fa elettrodomestici bianchi ma anche televisori, leader nei paesi del Golfo con un fatturato che si aggira ai 60 milioni di euro, che dice: io darò 40.000 euro oggi in titoli del tesoro, li comprerò, ho deciso di investire nel mio paese, l'Italia, La prima idea era di Giuliano Melani, che comprò 20.000 euro di bot. Io pagherò il doppio, ne comprerò il doppio, perché un immigrato deve avere due marce in più, 40.000 euro. Mentre invece c'è chi dice, intervistato dal Corriere, Paolo Barrai, curatore di un blog di finanza, che ieri ha comprato mezza pagina su Libero di pubblicità per dire: questa è pura follia, non bisogna mai andare contro il mercato. Se le cose si dovessero migliorare, lo vedremo solo nei conti, nella manovra più avanti, quando il capitale tornerà in Italia, ma comprare ora i titoli di Stato è pura follia ed è populismo puro. Staremo a vedere. È il BTP Day. Come andrà? Chi lo sa. Intanto la politica ritorna con l'attacco ai comunisti da parte di Berlusconi, dopo il traffico. Allora, è tornato Berlusconi in un incontro a Verona, per la verità ha parlato solo per qualche minuto, il mio impegno dietro le quinte contro i comunisti, è tornato ad agitare questo spauracchio che fa capire, secondo molti analisti, di retroscena della politica che sono un po' scomparsi, retroscena della politica dietro il rigore, la sobrietà di Monti sono un po' scomparsi dai giornali, tornano a parlare di questo per dire: è partita la campagna elettorale, non si sa quanto sarà lunga, cioè quanto durerà Monti, se fino al 2013 o meno, però sta di fatto che è tornata la campagna elettorale. Certo, Berlusconi ha anche detto: siamo insieme alla Lega, ma oggi una stoccata non indifferente le ha dato l'ex ministro Calderoli, intervistato da Repubblica, da Paolo Berizzi. Dice: le cene del lunedì? Berlusconi se le faccia pure con Monti ora. Silvio ci ha deluso molto, è incontrovertibile, non c'è più un'alleanza, se una è alla maggioranza e l'altra all'opposizione, è chiaro che ora non c'è più niente. Loro hanno avallato sostenendo Monti, colpa loro, stop. Così insomma Calderoli dice: non c'è più un'alleanza con il PDL. Alle prese con tutti i veti incrociati, ora Monti potrebbe anche non mangiare il panettone, ma tornando alle cene del lunedì Berlusconi le faccia con Monti, così decidono cosa fare. E anche sull'attacco ai comunisti è un disco rotto e non funziona più. Insomma, un Calderoli che dice assolutamente basta con il Popolo della Libertà. Questo per quel che riguarda la politica. Per la cronaca voglio sottolineare due notizie. La prima sono due pagine sul Corriere della Sera, pagina 18 e 19, che si concentrano sull'inchiesta che riguarda Don Verzè e il San Raffaele. C'è una notizia che viene data solo dal Corriere della Sera, vale a dire il resoconto di una microspia che nel lontano 2014 fu messa nell'ufficio di Don Verzè in maniera legale, cioè dalla procura che indagava e dalla quale ora si scoprono tante conversazioni che fece Don Verzè. Beh, intanto Don Verzè accolse per esempio il capo del SISMI, Nicolò Pollari, l'aiuto del SISMI e anche un rogo microspia svela i piani di Don Verzè. Si racconta in queste due pagine a firma di Mario Gerevini e Simona Ravizza, tra l'altro firmate con uno continua, dunque un'inchiesta che continua, proprio i resoconti di queste intercettazioni prese con la microspia. Beh, intanto Don Verzè, che era in lite con i vicini, i Lomazzi, che avevano un campo sportivo proprio adiacente all'ospedale San Raffaele, e praticamente si scopre di Don Verzè che dice: quello non vende, manda la finanza. E addirittura un Don Verzè che all'interno di queste conversazioni avrebbe detto all'interlocutore: Don Verzè dice all'ingegner Roma di fare un sabotaggio all'impianto sportivo, con l'ingegner Roma che dice: ho individuato un generatore, sarà sabotato il quadro elettrico, i campi non potranno essere illuminati, e quando gli amici andranno da Lomazzi, cioè il proprietario del centro sportivo, a fargli la proposta di acquisto per conto del San Raffaele, sarà in ginocchio. Cioè l'idea era quella che si evince da questa intercettazione: un Don Verzè che, pur di acquisire un terreno che il vicino non voleva dargli, evidentemente era pronto a usare questi sistemi. In ogni caso, tutto questo in una cimice messa nell'ufficio di Don Verzè. La seconda notizia di cronaca che trovate sui giornali proviene dallo spunto di quella tragedia in mare al largo di Brindisi, vicino alle coste brindisine, con decine di morti di migranti che cercavano di arrivare in Italia. E tra l'altro tutto questo ha dato via a una polemica non legata tanto a questo, ma sul tema della migrazione dei flussi, perché gli immigrati, la CEI ha chiesto più ingressi. Il Messaggero vi dedica una pagina, pagina 9, immigrati, la CEI chiede più ingressi attraverso la voce di Monsignor Giancarlo Perego, che è presidente di Migrantes, l'abbiamo sentito anche in GR24, dal Ministero però rispondono con una nota tecnica, che peraltro è però di qualche giorno fa, prima di questa tragedia, è escluso che ci sia quest'anno un decreto flussi perché in Italia ci sono già 280.000 disoccupati immigrati, la metà dei quali recepisce forme di sostegno al reddito. Insomma, c'è la crisi e dunque non è ammissibile pensare all'ingresso di nuovi immigrati, mentre invece la CEI chiede tra le varie ipotesi quello di rileggere le modalità con cui entrano gli stranieri in Italia e in altri paesi dell'Europa per dare quote maggiori a quei paesi che in questo momento sono al di là del Mediterraneo e vivono una drammatica situazione di rivoluzioni e di instabilità. Su questo si dibatte molto. Che gran calcio ieri sera, eh? Milan da sballo, Ibra fa 101... Questo è il titolo della Gazzetta dello Sport. Domenica sera, proprio da urlo, il giornale radio.